stessa guida del franco ambasciator che occulta il suo partir qui si arrestò. Or chiede teco parlar. Traggasi al mio cospetto. Oh! Yeah. questo indugio necessario è per me. In certo cuore io rassicuro i miei guerrieri intanto raggiungermi potranno. Allor sarò d'aita, o la vita darò per lei che adoro. Ma la me viene di piacere, io moro. Thank you. ciò che tu bravi o bravo, noi non abbiamo che un corno, non abbiamo che un corno, no, no, no, non abbiamo, non abbiamo che un corno. Sembra fede prestare ai detti miei, mostra d'indifferente, disprezzala se puoi. Taci, comprendo. Zoraide, assai, e per il tan tremendo, grande lo sdegno mio, ma fu più grande la mia pietà per te. Lasciai libere i sensi tuoi svelar tutti a costui, e il padre tuo l'amico. Yeah. Thank you. salvar, sovrante salvar. Ricciardo, sora pugnar s'accinge, dove torri non te. libero il varco, ogni custode a tempo, corrompere già sempre. Non ce n'è perché.